Attenti, avventurieri! Il cavaliere è scivolato. Per capire l'entità dell'incidente, dovete calcolare da quale altezza è precipitato. Sappiate che è caduto a una velocità media di 0,5 metri al secondo per 10 secondi. Quanti metri ha percorso nella caduta?